so, io non sono andata a scuola, ma più di lei sono brava. Io lo so, sì lo so che canto troppo e il tempo vola. Con chi mi piace e mi tratta bene, non sono cara. Prendi me, lascia lei, fammi fare un giro e poi vedrai. Si dice che i motori e le donne provochino dolori. Non ti intubare, vieni pure a provare la mia guida. Ti accorgerai, le nuove esperienze sono salutari. Perdere e ritrovare il tracciato è una sfida. Gli occhi miei sono due fari, nella notte camminano a fianco a chi si è perso oppure preferisce perdersi lungo la via, tante ombre che appartengono a qualcuno. Ma il possesso è relativo, le notti lontani universi. Prendi me, lascia lei, fammi fare un giro e poi vedrai. Prendi me, lascia lei, fammi fare un giro e giudicherai. Io non sono andata a scuola, ma un dono per la fisica e ti insegnerò. Supererai tutte le curve con una capriola. Vivere è facile perché è semplice, ricorda, io ti aspetterò.